Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati e buona Pasqua da Maria Luisa Pezzali. Quella di oggi è una puntata tutta dedicata al futuro, il futuro del cibo, della pubblicità nelle città, dei sistemi di messaggistica istantanea, ma con un filo rosso comune. Parleremo di realtà che ci proiettano nel futuro, ma sono tutte già esistenti, a disposizione di tutti noi. Per alcuni, anzi, sono già un'abitudine quotidiana, per altri lo saranno presto. Partiamo da quella che viene definita la New Food Economy, con una serie di start-up che mettono in contatto cibo e innovazione tecnologica, dall'agricoltura 2.0 al takeaway tra privati. Anche la pubblicità si adatta ai nuovi modelli urbani, alle mega cities del futuro che impongono nuove strategie per il racconto di marca. E poi sapete a cosa puntano le app del momento? A farci viaggiare nel tempo. Lo scopriremo nel focus sui trend della settimana, riflessione finale dedicata invece a consumi e umore. Mi chiamo Flint Lockwood e ho sempre cercato di inventare qualcosa di incredibile. Un'auto a volante! Perciò, quando la mia città si è trovata nei guai, ho capito che era l'occasione giusta per mostrare a tutti la mia genialità. Trasmutazione dell'acqua in cibo. Per la prima volta nella mia vita, tutti amano una cosa che ho fatto io. Posso avere le calde? Carne! Vado pazza per la gelatina! Mamma mia! La macchina decide da sola! Presto, sarete nell'epicentro di una tempesta perfetta di cibo! Dalle stampanti 3D ai sensori molecolari portatili, dalle smart kitchen alle etichette intelligenti. Su cosa sta puntando l'innovazione nel settore del cibo? Se ne è parlato recentemente a Seeds & Chips, primo salone internazionale dedicato al futuro dell'alimentazione e all'innovazione digitale nella filiera agroalimentare e nella gastronomia, un appuntamento per capire come stia cambiando il modo in cui il cibo viene prodotto, trasformato, distribuito, consumato e raccontato, su uno scenario che vede protagonisti temi quali sostenibilità, sicurezza alimentare, lotta agli sprechi e redistribuzione. È la cosiddetta Internet of Food. Siamo andati a scoprire le start-up che la popolano, le ha raccolte per noi Adriano Palazzolo. Davide Balbi è il founder di Agricoltura 2.0. Che cos'è e cosa fate? Agricoltura 2.0 è un nuovo modello di business per un mercato che cambia, con la massima espressione che la natura può dare nella crescita delle piante: l'acquaponica. I pesci danno nutrienti e anidride carbonica alle piante, che restituiscono acqua fitodepurata, e di conseguenza abbiamo le piante che crescono anche il 30% in più dell'idroponica, che oggi è anche 10 volte più veloce di quello che la coltura dal suolo. Il ciclo è tra pesce e pianta. E l'acqua va avanti e indietro, acqua dolce, quindi parliamo di carpe, koi piuttosto che pesci rossi, storioni, aragostelle. Ci sono 400 varietà di piante che possono crescere in modo più rapido e veloce. Come funziona l'ecosistema che voi proponete? L'ecosistema è una vasca pesci e un letto di crescita. La vasca pesci ha un'acqua che deve essere filtrata, il letto di crescita ha delle piante che devono essere nutrite. Può essere riempito con lapillo vulcanico piuttosto che pietra pomice o altri letti di crescita. A seconda delle tecniche che vengono utilizzate, si può dare un ciclo di aria e acqua alle piante oppure fare una coltivazione verticale. La cosa bella è che c'è l'80% in meno di forza lavoro. Si può essere autonomi dalla rete idrica con l'acqua creata dall'atmosfera e si può essere indipendenti dalla rete elettrica con le energie rinnovabili e dalle fonti fossili, perché non abbiamo più necessità, avendo bisogno di meno personale, né di trattori né di motozappe, tanto meno di fonti fossili come il petrolio. Dal 1 aprile a Milano arriva Mamau, che è il primo takeaway tra cittadini privati. Michela Franco, Il servizio prevede che i cuochi, che sono appassionati di cucina oppure professionisti che noi selezioniamo per garantire qualità e sicurezza, si registrano sul nostro sito. Li selezioniamo e loro pubblicheranno quelli che sono i piatti quando li preparano. Dall'altro lato, il cliente che ha voglia quel giorno del piatto di lasagne verifica se in prossimità della sua casa c'è un cuoco che le ha preparate, l'orario per il ritiro, e attraverso il sito prenota e definisce l'orario di ritiro del piatto. Per cui la transazione avviene sul sito e il cliente al momento deve andare a prendere il piatto a casa del cuoco, ma in un futuro implementeremo anche il servizio di delivery. Carlo Brianza è il founder della Comanda, una startup che si è inventata il Click and Pizza. Click and Pizza è un bottone magico, magnetico, che io posso attaccare sul mio frigorifero. Serve per ordinare il mio menù pizza preferito con un click. Se arrivo a casa la sera, tardi e fuori piove e ho il frigorifero vuoto e la moglie arrabbiata perché non ho fatto la spesa e i figli che hanno fame e insistono, cosa faccio? Io premo il click and pizza per 5 secondi e parte in automatico il mio ordine preimpostato di pizze. Allo stesso tempo però posso premerlo per un secondo solo e andare a customizzare l'ordine, quindi avere dei menu che ho già composto, ad esempio gli amici con cui gioco a tennis o con cui guardo la MotoGP la domenica, perfetto, abbiamo i nostri menu, oppure faccio un ordine alla carte, quindi ho un ospite che vuole mangiare la pizza a 4 stagioni, perfetto, ci arriviamo a 4 stagioni, la margherita, eccetera. Posso poi allo stesso tempo sul display ricevere delle promozioni che il mio negozio, la mia pizzeria mi vuole mandare, quindi special price o promozioni individuali. Questa fantastica novità che azzera i tempi di ordinazione e quant'altro, dove verrà venduta? Dunque, noi partiremo con Pizza Hut in Canada quest'estate con la prima fase di test, poi ci allargheremo e poi insomma speriamo in tutto il mondo. Astrid Varalda è una dei co-founder di The Gustibus. La nostra applicazione ha l'obiettivo di creare un database di prodotti italiani. Il nostro scopo è proprio quello di fornire uno strumento da un lato di marketing per le piccole e medie imprese italiane che potranno così far conoscere maggiormente il loro prodotto e dall'altro lato per i cosiddetti foodie, principalmente sarà il nostro pubblico ai quali ci rivolgeremo, cioè i food lovers, i quali potranno avere uno strumento sia informativo dove trovare informazioni interessanti sui prodotti, da chi è stato prodotto, dove reperirlo e altre informazioni di dettaglio e di storytelling del prodotto, sia avere uno strumento social col quale condividere la loro food experience con tutti gli altri utenti appassionati di food. Attraverso la scansione dell'etichetta del prodotto, il prodotto verrà direttamente riconosciuto dall'applicazione e apparirà sullo smartphone direttamente dell'utente la scheda prodotto stessa. Poi, naturalmente, l'utente avrà varie attività social da poter svolgere all'interno dell'app, una tra le quali è la possibilità di salvare i prodotti nella mia bag. Salvando i prodotti nella sua bag, l'utente, ogni qualvolta si avvicinerà a uno store dove viene venduto questo prodotto, anche se in quel momento non sta usando la nostra applicazione, verrà informato di questo tramite push notification. Supermercato 24 è una startup che promette di consegnarci la spesa a domicilio entro un'ora. Ce ne parla il founder Enrico Pandian. Siamo una piattaforma logistica presente in questo momento in 58 province italiane che praticamente mette in contatto chi vuole la spesa a casa con una persona che va a farla per te, il tutto entro un'ora. Il cliente si collega a supermercato24.it, a quel punto inserisce il suo codice di riferimento postale, da lì vengono visualizzati tutti i supermercati, quindi di qualsiasi catena, nei 5-10 km attorno a casa sua praticamente, seleziona il supermercato nel quale vuole mandare il fattorino a fare la spesa, da lì si apre una lista che è più o meno dai 5 ai 15 mila prodotti per ogni supermercato, clicca sul prodotto, quindi viene messo nel carrello come su qualsiasi altro sito come su Amazon, e da lì il cliente può decidere quando vuole la consegna e dove, e può decidere anche di avere la consegna all'ora successiva. A differenza delle altre catene che hanno già un servizio simile, noi consegniamo in un'ora o in giornata, mentre di solito gli altri consegnano almeno il giorno successivo, se non un giorno in più insomma. Io ho sempre lavorato tra Verona e Londra e quando tornavo a Verona non avevo mai il frigo pieno, e quando ordinavo da uno dei più famosi insomma catene che portano a casa, mi portavano la spesa 2 giorni dopo, quando io ero di nuovo a Londra, quindi non riuscivo mai ad avere la spesa a casa. Ho iniziato a guardare negli Stati Uniti se c'era qualcosa di interessante, ho trovato Instacart e ho deciso di crearne un clone per l'Europa. Chi sono le persone che ci portano la spesa a casa? Sono al 90% disoccupati e poi c'è circa un 9% di studenti universitari e un 1% di anziani. Sul pianeta pianeta gli abitanti dei centri urbani crescono al ritmo di 60 milioni l'anno. Oggi sono il 54% della popolazione. Nel 2050, secondo le stime dell'ONU, saranno il 66%. Siamo la prima generazione ad alta identità urbana, dice l'antropologo contemporaneo Marco Gé, che parla di Ville Planet, di una città mondo. Uno scenario che influenzerà tutto, anche il cosiddetto storytelling di marca, come ci ha raccontato Nico Abruzzese dell'agenzia media Maxus. Lo abbiamo incontrato a margine di If Book Then, l'evento annuale di Book Republic. La comunicazione cambierà perché fondamentalmente ci sono tanti problemi di hypertasking, quindi di essere al contempo in mezzo a mille cose, di avere nello stesso momento anche una problematica proprio di attenzione, quindi di sovraesposizione dei contenuti. E quindi quello che secondo me cambia e deve cambiare e sta cambiando molto, vedendo il pianeta, diciamo, Asia e il pianeta americano in qualche maniera, è proprio la relazione con l'esperienza, quindi esperienza del messaggio di brand, che diventa di fatto una sorta di utilità messa a funzione del consumatore, dove a quel punto la rilevanza dell'interazione diventa il messaggio in sé per sé. Per cui l'idea ancora una volta di portare l'esperienza di tutti i sensi, ma anche del senso, diciamo, di logica e di utilità e di necessità, è fondamentalmente il grosso cambiamento che è necessario quando si pensa al marketing delle mega cities, che è il marketing del presente. Accennavi alla statistica del 2050. Ma oggi il 54% del pianeta vive in megacities. La strada su cui viaggia John Anderton è quella meno percorsa. Assicurati di essere stato in via. Non una perdere storia che non potrai mai dimenticare. Ehi, John Anderton, scappa via da qui. Bonjour, John Anderton. Avresti proprio bisogno di una Guinness adesso. Ogni giorno passerai con noi, sarà un giorno in più in paradiso. Ti serve una vacanza? Vieni a Tarzano. Stacca la spina, John Anderton. Quando si prefigurano scenari distopici o meno, insomma, a seconda poi della corrente di pensiero, si cita spesso l'immagine cult di Minority Report, in certo, cui il consumatore, il cittadino, viene riconosciuto, viene individuato, quindi tutto il problema dei big data, della privacy, eccetera, certo, e riceve un messaggio molto personalizzato. Ecco, sono scenari che si possono prefigurare in quei termini? Si potrebbero, e senza dubbio conosco tanti marketer che hanno questo desiderio molto da grande fratello. In realtà credo che quelli che la pensano in questi termini abbiano un futuro molto breve. Quelli che invece individuano la reale opportunità, non dell'iperpersonalizzazione, ma della realizzazione dell'individualità che hai di fronte. Non c'è niente di peggio che trovarsi di fronte a qualcosa di cui non ne vuoi sapere. L'idea di essere in ascolto reale, usando dati in maniera sensata, in maniera elegante, con uno scambio fondamentale di valori, questo secondo me è molto più importante. Quindi questa idea di non tanto di grande fratello, ma di grande sorella, se vogliamo, questa sorta di forma benevole che ti conosce, così come una sorella ti conoscerebbe a livello personale, e che crea di fatto questa relazione personale ma desiderabile. Quindi human to human, no? Come si usa dire adesso, come modello mutuato dalla rete. Ecco, c'è una campagna o qualche campagna che ti piace citare più di altre come campagne simbolo di queste nuove modalità narrative e di engagement del consumatore, dell'utente? Ma per fortuna ce ne sono tante. Una di quelle che mi piace di più è quest'idea del questo famoso ponte in Corea, che è famosissimo per essere il famoso ponte dei suicidi, che è una cosa terribile in sé per sé. E questa compagnia assicurativa, che si chiama Samsung, ha ripensato al ruolo di questo ponte come il ponte della vita, e quindi ha creato un sistema di interazione tramite una forma tecnologica che ha contribuito al 70% di calo dei suicidi da questo ponte. Quello che mi piace molto di questo esempio è proprio l'applicazione umano a umano di questi contenuti, capaci di fornire un servizio importantissimo e vitale in un momento di disperazione assoluta, usando fondamentalmente la lente e lo spazio di banda di un brand come Samsung, non nel fare tecnologia, ma nell'essere una compagnia assicurativa in Corea. Quindi pensando in piccolo, con una grande idea e con tantissimo uso di creatività al servizio fondamentalmente del vero necessario bisogno sul luogo. Avete presente le scatole dei ricordi sepolte in giardino? Siete pronti a viaggiare nel tempo? Restate con noi, ne parliamo subito dopo la pausa. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta Essere e Avere. Primo, innesti i circuiti del tempo. Questo ti dice dove stai andando, questo ti dice dove sei e questo ti dice dove eri. Registri il tempo di destinazione su questa tastiera. Diciamo che vuoi vedere la firma della dichiarazione di indipendenza o assistere alla nascita di Cristo. Ecco una data importante nella storia della scienza. 5 novembre 1955. Sì, certo, 5 novembre 1955. Non capisco, ma che è successo? Fu il giorno in cui inventai il viaggio nel tempo. Focus sui trend. Non ci sarà la mitica DeLorean a farci viaggiare nel tempo. Nell'immediato futuro ci saranno invece, anzi, ci sono già le app che sfidano il tempo, quelle che recapitano i nostri messaggi, i nostri video in ritardo fino a 25 anni nel futuro, pensate. Oppure quelle come Periscope, di cui tutti parlano in questo momento, che ci teletrasportano da un evento live all'altro. E poi social network per la memoria digitale, progetti fotografici, innumerevoli saggi che ci fanno riflettere sulla memoria e il tempo nell'era di internet, del qui e ora, si dice. Ne parliamo con Paolo Ferrarini di Future Concept Lab. Ciao Paolo, bentrovato. Ciao, buongiorno. Allora Paolo, partirei da questa app appena lanciata negli Stati Uniti, si chiama Incubate, permette di recapitare i propri messaggi nel futuro. Esattamente, è una sorta di scatola del tempo, un po' come le cose che troviamo in soffitta magari dopo tanti anni, con dentro vecchi dischi, vecchi oggetti, vecchie fotografie. Questa però è volontaria, non è casuale, nel senso che noi possiamo decidere che oggi, ad esempio, stiamo vivendo un momento particolarmente interessante, particolarmente bello, particolarmente ricco e non lo vogliamo dimenticare. Scattiamo una fotografia, giriamo un video e la mandiamo attraverso Incubate magari a noi stessi tra 20 anni, per cui esattamente tra 20 anni ci arriverà un messaggio di notifica, noi apriremo il messaggio e ci ritroveremo questo bel momento. Potremmo mandare, che so, un video a dei nostri nipotini o ai figli che magari ancora non abbiamo tra qualche anno, insomma. Quindi sarà bello rivedere i propri momenti oppure mandare messaggi a persone care. Tra l'altro è stata fatta anche una bellissima campagna video in cui si immagina un futuro apocalittico in cui arriva un messaggio di una nonna da un tempo molto remoto. La postiamo subito sulla nostra pagina Facebook. Si parla molto anche di Periscope, l'app che trasforma gli utenti in pratica in broadcaster. Esatto. Ci permette di videotrasmettere la nostra vita in diretta, è così, no Paolo? Esatto, momenti eccezionali o momenti super quotidiani. Se vi iscrivete a Periscope, è molto semplice, con il proprio account Twitter arrivano delle notifiche. Nel momento in cui ci si iscrive bisogna attivare le notifiche, arriva la notifica che ti dice: guarda, il tuo amico che si trova negli Stati Uniti adesso è su Periscope e ti sta facendo vedere il suo gatto quando gli fa le feste appena è tornato a casa. Quindi il fatto che sia interessante o meno, poi chiaramente questo è assolutamente super soggettivo. La cosa buffa è che è praticamente la concretizzazione di quello che ci racconta Dave Eggers nel suo ultimo romanzo, che si chiama Il Circolo. È la storia di questa ragazza che va in un'azienda californiana di alta tecnologia, potrebbe essere Google, potrebbe essere Facebook, potrebbe essere magari una società che ancora non esiste. Questa ragazza si trova a dover gestire dei social network, ma non si capisce se è vittima o carnefice, diciamo, se è la persona che decide le sorti degli utenti o se invece è il social network stesso che decide cosa deve fare. E lì, proprio nel libro, Eggers racconta di queste app che ti consentono di vedere costantemente in diretta la vita di milioni di persone in tutto il mondo. Su internet, sulla rete, sulla privacy, si stanno concentrando moltissimi saggi anche proprio su questo concetto del tempo e della memoria. Mi viene in mente Kahneman, il premio Nobel Daniel Kahneman, l'ho già citato altre volte, che a proposito della cosiddetta Instagram Generation dice: i millennials vivono il presente come una sorta di memoria anticipata, proprio perché continuamente documentata. È vero, assolutamente vero. C'è un libro che è uscito alla fine dello scorso anno anche in Italia, si intitola Presente Continuo di Douglas Rushkoff, edito in Italia da Codice, che racconta proprio di questa costante emergenza del presente nella quale noi viviamo. Se ci pensiamo, siamo costantemente bersagliati da notifiche, email, messaggi, anche basta fare un viaggio in treno, insomma, ed è una specie di concerto per suonerie, ma sono ormai quelle più di messaggi che non quelle di notifiche più che quelle di telefonate. Il problema vero qual è? Che non riusciamo a stabilire la priorità di questi messaggi, per cui ci troviamo in una sorta di stress da presente. Douglas Rushkoff è molto costruttivo in questo suo saggio e dice: ok, dobbiamo imparare un pochino a stabilire le priorità sul brevissimo periodo con le notifiche quotidiane, ma anche su periodi medi e lunghi, in modo da allungare un pochino la nostra percezione del tempo, che non è semplicemente un tempo presente molto stretto, ma dovrebbe allargarsi un pochino verso il passato e anche verso il futuro. E ci sono siti anche che ci aiutano, che hanno puntato proprio sull'organizzazione di questa memoria digitale. Sicuramente Evernote è un caso molto molto interessante, sia dal punto di vista concettuale che anche proprio dal punto di vista imprenditoriale. Il fondatore di Evernote ormai ha detto che vuole sostituire Microsoft Office per l'organizzazione del lavoro e della vita. In sostanza Evernote è una piattaforma piuttosto complessa, molto ampia, che consente di archiviare informazioni. Possiamo organizzare il contenuto per tag, possiamo organizzarlo per argomenti, possiamo creare dei taccuini che sono delle sorte di folder, delle sorte di cartellette, ma ci consente anche proprio di organizzare e utilizzare il nostro archivio in una maniera molto costruttiva, un centro di pensiero in cui organizzare tutte le cose che magari troviamo durante la nostra giornata, che troviamo interessanti e che troppo spesso dimentichiamo, perché la memoria digitale non è così lunga delle volte. Con cosa chiudiamo, Paolo? C'è tempo per un'ultima segnalazione. Ah, guarda, un libro che ho appena scoperto e che mi è piaciuto tantissimo, edito da Penguin, si chiama Age of Earthquakes, ancora in Italia purtroppo non è uscito. Sottotitolo di questo libro: una guida per il presente estremo. Tra gli autori vede Douglas Coupland e Hans-Ulrich Obrist, insomma personaggi di un certo peso nella letteratura, nell'arte, eccetera. È un libro molto twittabile, nel senso, è strutturato anche graficamente con pagine molto semplici, con una grafica molto forte che un po' richiama l'originale The Medium is the Message di McLuhan e Quentin Fiore. Quindi tu apri queste pagine, ci sono delle grandissime verità, delle frasi molto forti che viene voglia di fotografare e di condividere. Quindi è un libro cartaceo, assolutamente cartaceo, che però vive di questa natura anche molto digitale. Cosa ci racconta questo libro? Ci rivela delle piccole verità, moltissimi dati, o inventa delle nuove parole, come ad esempio smupid, che è lo smart stupid, quindi atteggiamenti che sono tanto intelligenti quanto stupidi nello stesso tempo. Oppure ci spiega che il dove sei è il nuovo come stai? Oppure una frase molto bella che ho trovato su questo libro è protect me from what Amazon suggests, proteggimi da quello che mi suggerisce Amazon, che fa un po' il verso al protect me from what I want, proteggimi da quello che voglio, di Jenny Holzer. È un libro molto colto, ma nello stesso tempo anche molto leggero, di facilissima lettura. Speriamo che esca presto anche in Italia. Certo, a proposito di induzione all'acquisto, ovviamente ne parliamo in una prossima occasione, c'è ancora almeno un giorno di vacanza, abbiamo dato anche dei consigli di lettura. Grazie a Paolo Ferrarini, alla prossima. Grazie, a presto. Il consumautore. Siamo al salotto finale, chiamiamolo così, di Essere Avere, in compagnia, come sempre, del sociologo Francesco Morace. Ben trovato, Francesco. Buongiorno Maria Luisa, a tutti i radioascoltatori. Il tema di oggi? Il tema di oggi è l'umore personale. L'umore personale spesso viene considerato un incidente di percorso nelle decisioni, anche nelle decisioni aziendali, nella modalità di comunicare con gli altri. Si sta invece sempre più confermando l'ipotesi che le nostre decisioni alla fine dipendono sempre dall'umore. Per quanto si voglia essere razionali, quell'elemento che possiamo definire anche di buon umore, di positività, ha sempre una grande importanza nelle nostre strategie di vita. Allora l'indicazione è: cerchiamo di creare le condizioni per cui il nostro umore sia migliore. Vuol dire una relazione diversa con gli spazi, con la bellezza, con i nostri colleghi e con la nostra famiglia. Quindi sentimenti ed emozioni in primo piano dal punto di vista aziendale della comunicazione di marca. Come si traduce questo concetto? Allora, è chiaro, l'ipotesi non è quella di dare spazio semplicemente all'umore e quindi anche ad un'arbitrarietà dei comportamenti, non è questo, ma esserne consapevoli che una parte sostanziale poi delle nostre attività dipende dal nostro umore. Quindi se noi partiamo da questo presupposto, possiamo, io credo, immaginare ad esempio progetti sul futuro e anche di crescita felice che siano legati. Che lo ricordiamo, Francesco, il titolo del tuo ultimo libro. Sì, e che proprio mette al centro la psicologia. È un pochino come dire, forse la psicologia è più importante dell'economia. Abbandoniamo l'idea dell'utilitarismo per cui tutte le nostre decisioni sono legate al nostro interesse personale. Noi abbiamo piacere nel condividere in modo felice e quindi creare un umore diverso anche con i nostri collaboratori o con i nostri interlocutori, anche i consumatori. Un caso significativo degli ultimi mesi è il successo editoriale di questo volume, si chiama L'arte delle lettere, perché nella corrispondenza da sempre le persone mettono al centro questa dimensione che è non solo relazionale ma è umorale, raccontando, mettendo anche un po' allo scoperto la propria intimità. Ecco, questo elemento è molto importante anche per una brand, perché raccogliendo diciamo i racconti che i propri consumatori realizzano, questo diventa un volano straordinario anche per il successo della brand. A domenica prossima, grazie Francesco. Grazie a voi. E grazie in regia anche a Gianmarco Ferronato. Essere Avere finisce qui e vi dà appuntamento come sempre a domenica prossima alle 15. Un saluto e di nuovo un augurio di buona Pasqua da Maria Luisa Pezzali.